La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. L'articolo 42 riguarda la proprietà. Dobbiamo ricordare che la proprietà è uno dei classicissimi diritti inviolabili su cui si gioca il passaggio dalla società medievale alla società moderna, perché ovviamente nella società moderna la titolarità della proprietà diventa strumento di elevazione delle classi sociali e quindi di partecipazione reale dei borghesi, degli agricoltori alla formazione della classe statale. Va anche ricordato che nelle Costituzioni di fine Settecento la proprietà assume un ruolo fondamentalissimo. Viene garantita la proprietà come diritto inviolabile e viene garantita accanto alla libertà personale. Basta ricordare l'articolo 17 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 che proclama il diritto di proprietà sacro e inviolabile. Questa impostazione storica ci serve invece a capire come l'ottica del costituente italiano cambi completamente. La proprietà non viene più inserita nei diritti del cittadino, diritti fondamentali, parte prima, titolo primo, tutte le libertà inviolabili, personale, di domicilio, di circolazione, ma passa invece nel titolo dei rapporti economici. E nel titolo dei rapporti economici l'articolo 42 non dà più alcuna garanzia di sacralità e di inviolabilità alla proprietà. Infatti l'articolo 42 recita semplicemente che la proprietà è pubblica o privata, quindi ci fa capire immediatamente che esistono diversi titoli proprietari ed è la legge ad assicurarne e riconoscerne modi di acquisto, godimento, limiti. E qui abbiamo un'affermazione importantissima, perché l'articolo 42 consente limiti alla proprietà allo scopo di assicurarne la funzione sociale. Ecco allora che la proprietà non viene più vista, la proprietà dei beni, solo allo scopo individualistico, ma viene vista nella sua funzione sociale e quindi nelle sue limitazioni per contemperare l'interesse collettivo. Anche qui è chiarissimo ed è vistosissimo il binomio fra lettura liberale classica e lettura invece socialista di una proprietà che mira a scopi collettivi. Ancora, il terzo comma dell'articolo 42 prevede l'espropriazione. La proprietà privata non è più sacra e inviolabile, ma addirittura può essere espropriata, quindi può essere trasferita in mano pubblica per motivi di interesse generale, con una garanzia, salvo indennizzo. Quindi la legislazione può prevedere un trasferimento coatto della proprietà privata, ma il privato deve essere adeguatamente risarcito per questo trasferimento. L'articolo 42 ci fa vedere benissimo le due letture, liberale e socialista, anche sulla proprietà, che devono essere comunque combinate perché l'interesse del singolo deve comunque abbinarsi e confrontarsi con l'interesse collettivo.